Radio 24 Reportage. Carni e salumi, il Made in Italy sotto attacco, di Enrico Pagliarini. Il 26 ottobre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce una cosa già nota da anni, almeno dal 2007. Le carni rosse lavorate per la conservazione, come ad esempio i salumi, possono essere un fattore di rischio per alcuni tipi di tumore. La notizia fa scalpore, ma leggendo per bene si scopre che lo studio indica un aumento del rischio del 18% se si mangiano almeno 50 grammi di carne ogni giorno, un consumo molto alto, circa il doppio di quanto si mangia nel nostro paese. Insomma, l'italiano medio potrebbe proseguire con le proprie abitudini, ma in realtà cosa sta accadendo ad uno dei settori più importanti della nostra economia? Un settore che dovrebbe chiudere il 2015 con una ripresa dell'1%, toccando i 134 miliardi di valore, dopo il più 0,6% del 2014. Per capirlo, questa settimana ho fatto tappa nelle province di Mantova, Modena, Parma e Como, un viaggio nella pianura padana dove hanno sede alcune fra le principali aziende che producono salumi in Italia. Nicola Levoni è il presidente di Assica, l'associazione degli industriali delle carni e dei salumi. Qualcosa, soprattutto nelle carni fresche, ha rallentato a livello di consumi, ma lo abbiamo visto più che altro sentendo gli operatori, ma più che altro anche guardando quello che succede nei punti vendita. È come quando metti un autovelox sulla strada: per le prime settimane tutti, se c'è 50, vanno a 30, poi dopo si abituano ad andare a 50. Allora adesso noi abbiamo dato anche un messaggio: stiamo già come italiani consumando correttamente, perché comunque lo stile di consumo nostro è ben diverso da quello che è stato comunicato dall'OMS. Speriamo che sia proprio così, che poi si riprenda al consumo corretto e normale. Che tutto si sistemi nel giro di poco tempo lo pensa anche Giuseppe Villani, amministratore delegato della Villani Salumi e presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Da quelle che sono le nostre recentissime informazioni, direi che l'atteggiamento del consumatore è stato un po' negativo, soprattutto nei confronti della carne bovina, più che non verso la nostra. Però chiaramente pensiamo che le prime due settimane potrebbero esserci delle riduzioni di consumo intorno al 20%, poi di ritornare gradualmente alla normalità. Un dato interessante condiviso da altri produttori è quello che riguarda l'export. In queste ultime due settimane non abbiamo avuto nessuna ripercussione nelle vendite all'estero. Abbiamo chiesto informazioni sulla vendita di carne e salumi alla grande distribuzione organizzata. Esselunga e Coop, le due catene da noi contattate, non ci hanno fornito alcun dato, ma un paio di visite nei mercati di Milano ci hanno dato segnali di un certo ottimismo fra i negozianti e gli ambulanti. Solo alcuni, una minoranza, ha notato riduzioni negli acquisti. Il nostro viaggio continua alla Fumagalli Salumi. Siamo vicino a Como. Francesco Pizzagalli, l'amministratore delegato, è anche il presidente dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Beh, i segnali di questi primi 15 giorni dopo che c'è stata la diffusione di questa notizia sono un po' segnali contraddittori. Da un lato possiamo sicuramente dire che il mondo dei prodotti trasformati al momento, con tutte le precauzioni del caso, non abbia avvertito un impatto significativo su quello che è stato un po' l'effetto della notizia di questo studio presentato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. D'altro canto, qualche segnale un pochettino più preoccupante forse si può intravedere nel mondo delle carni fresche, dove in questi giorni si assiste un po' a un calo delle vendite. Come giudizio complessivo, credo che dopo un inizio, come dire, un po' contrastato, il consumatore italiano stia mettendo nella giusta dimensione il senso e la verità di queste notizie. A proposito di consumatori, nel settore pare siano tutti d'accordo che noi italiani siamo molto attenti, come spiega Giuseppe Villani. Secondo noi nessun consumatore è più informato dell'italiano. Secondo me ha una grande capacità di filtrare tutte le notizie e di avere un, un molto buon senso. Attenti, informati, ma anche consumatori che stanno cambiando in tutto il mondo, ricorda Nicola Levoni. Il consumatore sicuramente ultimamente si documenta molto di più, soprattutto la popolazione più giovane, quelli che chiamano i millennials. E quali sono le principali richieste di chi consuma salumi? Francesco Pizzagalli. Il prodotto non è soltanto, o la qualità del prodotto non è soltanto l'unico elemento su cui oggi il consumatore si confronta. Continua ad avere un peso importante, ma non è l'unico. Oggi siamo di fronte a consumatori che sono attenti anche ad altre problematiche, alla problematica ad esempio legata all'ambiente, all'impatto che il packaging ha su tutte le questioni ambientali, di smaltimento, le problematiche legate al mondo del benessere animale. Quello del cambiamento è un elemento centrale per il futuro di tutti i prodotti, non solo quelli dell'agroalimentare, e di tutti i servizi. Sappiamo che l'innovazione è spesso uno dei maggiori fattori competitivi e l'incapacità di innovare spazza via aziende o addirittura interi settori. Ma la difficoltà maggiore in questo caso è la necessità di mantenere un forte legame con la tradizione e con il territorio. Cambiare tuttavia si può, come dimostrano i salumi di oggi, che in molti casi hanno meno sale e meno grassi. Io credo che l'industria dei salumi italiani questo l'abbia già capito e soprattutto negli ultimi anni ha migliorato la qualità dal punto di vista salutistico dei propri prodotti. Abbiamo bisogno di comunicarlo bene tutto questo. Oggi la quantità di sale per alcuni prodotti è stata ridotta del 50% e continuano a mantenere intatto il valore della tradizione produttiva. Altro fattore di cambiamento per l'industria è la geografia. Di fronte ad un mercato italiano che nella migliore delle ipotesi è stabile, le opportunità sono al di là del mare e delle Alpi. E il dato positivo è che l'export aumenta. Più 4,7% i prodotti esportati nel 2014, più 6,3% il valore totale, come ricorda Nicola Levoni. I mercati esteri danno soddisfazione, c'è molto spazio, non dobbiamo dimenticarci del nostro, chiamiamolo, zoccolo duro che è il mercato italiano e il mercato europeo. Estero con alcuni distinguo, come spiega Giuseppe Villani. Io sono molto ottimista sui consumi europei di prodotti italiani. Per quanto riguarda invece i paesi terzi, il trend sono convinto che sarà molto lento perché i paesi terzi offrono barriere sia tarifarie ma soprattutto sanitarie non ancora eliminate. Chiudiamo con le parole di Francesco Pizzagalli che ben riassumono le opportunità che abbiamo, parole che valgono in generale per l'agroalimentare made in Italy. L'export sta andando bene, continua a crescere tutti gli anni, ma potenzialmente l'export ha ancora grandi spazi dove poter andare a vendere i nostri prodotti con i valori che questi prodotti si portano dentro. I mercati più interessanti oggi continuano ad essere comunque il mercato nordamericano, i mercati del nord Europa, ma anche i mercati dell'estremo oriente. Questi mercati che proprio in quel momento qui sono anche alla ricerca di questi nuovi stili di vita, meglio di altri si prestano ai nostri prodotti. Perché? Forse una delle cose che nella ricerca che è stata presentata in questi studi non è adeguatamente inquadrato in termini corretti è che noi abbiamo dei prodotti che provengono da una capacità produttiva e da una materia prima che è sostanzialmente diversa da quello che avviene in altri paesi del nord Europa e del nord America. Quindi la qualità dei nostri prodotti è una qualità di un sistema e noi oggi con questo sistema abbiamo la possibilità di poter andare a presentare i nostri prodotti come prodotti che portano in sé dei valori anche dal punto di vista salutistico, esattamente il contrario di quello che vorrebbe far pensare lo studio presentato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quello che conta oggi è consumare in modo misurato tutto, quindi la frutta, la verdura, la pasta, i salumi, le carni. Quello che conta è l'equilibrio. Noi oggi abbiamo un sistema alimentare complessivo che ha tutte queste cose qui, che si riassume nella famosa dieta mediterranea. E questi valori noi dobbiamo saperli vendere bene anche all'estero. Quindi lavorare in questo senso significa garantire presenza delle nostre aziende sui mercati esteri, significa garantire possibilità di successo anche per il futuro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.